Te lo raccontiamo noi, l'autunno caldo. 50 anni dopo, il 68, il 69 e Piazza Fontana. Un saluto a tutti, oggi è 12 dicembre 2019, sono passati esattamente 50 anni da quel maledetto 12 dicembre 1969, il giorno della strage di Piazza Fontana, la madre di tutte le stragi, una data che ha cambiato decisamente le sorti della vita politica e civile del nostro paese. È una data che rappresenta una rottura, una svolta, un momento davvero significativo per tante compagne e tanti compagni che militavano nei movimenti della sinistra extraparlamentare, ma non solo, negli studenti, diciamo, che animavano la vita politica e sociale, così come segnò in profondità le coscienze degli italiani e che da quel momento in poi vissero la vita politica e sociale sicuramente in maniera diversa, ecco. E fu una strage che ebbe uno scopo ben preciso, no? Quello di mettere il bavaglio a chi si stava mobilitando in maniera anche efficace, no? Nel paese, vero Michele? E credo che ricordarla oggi sia molto importante, molto significativo, proprio perché le dinamiche di chi sotto traccia lavora, no, per sconvolgere e per destabilizzare gli equilibri politici, la vita democratica di questo paese, sono sempre molto attuali. Sì, certo. 12 dicembre del 69, esattamente 50 anni fa, Piazza Fontana, Banca Nazionale dell'Agricoltura, esplode una bomba, muoiono subito 16 persone e una 17esima vittima che sarà dopo qualche giorno in ospedale. A questi 17 morti va aggiunto Pino Pinelli, l'anarchico innocente incastrato dalla polizia che volerà dal quarto piano della finestra dell'ufficio politico della questura di Milano morendo, e a cui va aggiunto anche Pietro Valpreda, che non morirà ma sarà l'altro anarchico incastrato e che passerà alcuni anni in carcere prima di essere assolto definitivamente quasi 20 anni dopo quella tragica data. Ma non soltanto una rievocazione storica oggi dovremmo fare una riflessione e parlare della destra e dei fascisti di ieri per capire anche come combattere la destra e i fascisti di oggi, perché c'è un segno nero nella storia d'Italia che parte da molto prima anche della strage di Piazza Fontana, parte da quel mondo neofascista che non si è arreso, non si è fermato il 25 aprile del 45, ma ha continuato a proliferare e a vivere in tutti i decenni della storia repubblicana. E la strage di Piazza Fontana si colloca quindi in un contesto storico ben particolare, segna un punto particolare della storia d'Italia. Veniamo dal 1968, fatto dalle lotte internazionali degli studenti e degli operai, ma anche in Italia il forte movimento studentesco, e anche lì si hanno già l'anno precedente tensioni fra i neofascisti e i movimenti. Ricordiamo Almirante e i militanti fascisti che assaltano le facoltà occupate a Roma, per esempio. E le lotte operaie, che iniziano nel 68 e raggiungono il loro apice nel 1969 con l'autunno caldo, la lotta centrale in quel periodo per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. È un tempo storico diverso da quello di oggi. Certo, però è come se a un certo punto si fosse improvvisamente deciso di passare appunto ad una vera e propria strategia, no? Quella che poi è stata definita la strategia della tensione. Le bombe, la colpa agli anarchici, al movimento, diciamo alla sinistra extraparlamentare, a chi si mobilitava nel paese, non una chiara matrice nell'immediato, ma appunto la matrice fascista che pian piano viene fuori con gli anni e rimane nei fatti un mistero, perché per la maggior parte delle persone i colpevoli non sono identificati, no, come i fascisti, proprio perché hanno trovato una modalità assolutamente inedita, no, quella di generare terrore nel paese, farlo materialmente, farlo fare ai fascisti, però nei fatti i responsabili tuttora nella gran parte delle stragi non sono stati mai presi, non si è arrivati ai mandanti in nome e cognome, ecco. Sì, su Piazza Fontana in realtà si sa molto e si sa quasi tutto, però è il contesto storico quello che determina la strage, quello che a un certo punto fa scendere scegliere una parte dell'estrema destra, del mondo neofascista, del mondo militare, del mondo padronale e anche strutture internazionali di intervenire in Italia, appunto con quella che poi verrà definita poco dopo da un giornalista inglese la strategia della tensione. Nel 1969 è bene ricordarlo che nell'Europa occidentale, considerata un faro della democrazia, se oggi la si guarda in prospettiva storica dalla maggior parte delle persone, nel 1969 in Europa occidentale ci sono ancora tre regimi dichiaratamente fascisti: la Spagna di Franco, il Portogallo e i Greci con i colonnelli che hanno fatto due anni prima il colpo di Stato e che giocheranno anche lì un ruolo nel sostenere prima, durante e dopo la strage il neofascismo italiano. Un'Europa non pacificata e un'Italia nella quale anche dentro lo Stato le epurazioni dei fascisti dopo il 25 aprile del 45 non ci sono state. Dentro la storia della strage incontreremo persone che hanno ricoperto ruoli all'interno del regime, dal questore di Milano che guidava il confino di Ventotene quando c'era per esempio fra i detenuti un personaggio abbastanza noto che si chiamava Pertini, ad altri funzionari della questura di Milano che avevano prestato servizio durante il fascismo e non avendo fatto nessuna epurazione fa sì che ci sia questo incrocio fra appunto interessi politici, militari e padronali che incontrano in un mondo fascista in parte e in parte neofascista quel retroterra politico e culturale da cui nasce la strage e la strategia della tensione conseguente. Però è interessante anche vedere e analizzare la reazione, no? Quella che ci fu alla strage, quindi che la colpa agli anarchici fu data anche da tutto quel mondo considerato il gotha dell'ambito diciamo intellettuale e culturale del paese e anche della sinistra istituzionale. Se si pensa alle prime pagine dell'Unità nei giorni immediatamente successivi all'arresto di Valpreda, no? In cui venne dipinto come un mostro, diciamo solo lotta continua e umanità nuova erano i giornali che testimoniavano la verità e difendevano l'innocenza di Valpreda perché erano appunto estremamente convinti che un anarchico non avesse mai potuto mettere una bomba davvero alla banca dell'agricoltura. Ecco, però diciamo è anche significativo del fatto che anche la sinistra istituzionale ha avuto le sue colpe rispetto a tutta una serie di dinamiche che poi dopo hanno lasciato il segno nel profondo, ecco, perché l'impatto che si ha con queste vicende segna nel profondo le coscienze, no? E ovviamente cambia anche le dinamiche politiche e sociali. Il pomeriggio del 12 dicembre in piazza del l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci sono le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori, sull'autobus a Milano in poche ore, la testa nel bavero del cappotto alzato. Gente, tutto così in fretta. No, no, no, non si può più dormire.

Ferdinando Umberto D'Amato, e improvvisamente questo si è messo a parlare di Pinelli, non richiesto, ha raccontato che cosa è successo in quella stanza, ha raccontato di essere stato testimone di una riunione avvenuta nei giorni successivi a Roma, alla presenza di Federico Umberto D'Amato e del capo della polizia all'epoca. Lui ha ascoltato le cose che ha detto Antonino Allegra, che era stato convocato per questa riunione essendo il responsabile dell'ufficio politico della questura. Hanno raccontato che Pinelli era di spalle alla finestra e che improvvisamente nella stanza è entrato qualcuno gridando Valpreda ha parlato, vi è stato un momento fisico di scontro tra i poliziotti e il carabiniere che erano in quella stanza e Giuseppe Pinelli, che è cascato di schiena. In buona sostanza è stato spinto ed è cascato di schiena, il che fa rientrare tutto anche dal punto di vista delle perizie, perché sugli avambracci di Giuseppe Pinelli non c'erano ematomi e contusioni, non ha urlato, è caduto perpendicolare al muro, ha colpito con la testa sotto la grondaia che passava sotto il muro al quarto piano ed è precipitato nel cortile. Anche su Pinelli sappiamo molto di più di quello che si dice in giro. C'è stata una colluttazione e Pinelli, che era di spalle, è caduto ed è precipitato. Rispetto a Valpreda invece, come dicevo prima, si è cercato il mostro, si è costruito il mostro pezzo dopo pezzo, e la cosa che va sottolineata oggi è che nonostante Pietro Valpreda sia stato riconosciuto completamente estraneo a questa vicenda, negli ultimi anni ci sono delle operazioni per tentare di reincolparlo, ancora una volta intossicando l'opinione pubblica, facendo credere che dopo tutto gli anarchici non potevano essere estranei, siano stati giocati da quelli di Ordine Nuovo e da altri, pensando di voler fare semplicemente un attentato dimostrativo all'interno della Banca Nazionale d'Agricoltura, che era stato poi invece raddoppiato con una bomba micidiale. La cosa continua, si reinsiste su questo fatto, e far apparire ancora una volta gli anarchici brutti, sporchi e cattivi per un'operazione, secondo me, mediatica, su cui dovremmo, come dire, dare ancora ulteriormente delle risposte. Sì, effettivamente la teoria della doppia bomba sembra più fantascienza e fantastoria che un'ipotesi realistica. Un'ultima... È stata smentita anche da un punto di vista tecnico sulla base delle perizie, ma quando si fanno queste operazioni le si fanno indipendentemente dall'evidenza dei fatti. Ti volevo fare un'ultima domanda, Saverio. La strage del 12 dicembre 69 ha cambiato e come la storia della Repubblica Italiana nel periodo politico successivo? Beh, è stato un momento di svolta importante, è stata più di un'accelerazione, anche se va detto che non è che gli anni precedenti e i mesi precedenti fossero tali da poter giustificare che questo era un paese innocente che poi ha perso questa sua innocenza con la bomba di Piazza Fontana. Ricorre l'anniversario della morte di un poliziotto, Antonio Annaruma, 19 novembre del 1969, morto in una scontro con dei manifestanti, degli operai che erano in sciopero generale per la casa, uno degli scioperi più importanti della storia di questo paese, perché era il primo unitario dal 1948, si dice dalle statistiche che partecipò a questo sciopero quasi il 95% dei lavoratori italiani. Ebbene, quando vi fu la manifestazione successiva dei metalmeccanici a Roma il 29 di novembre, misero in testa un cartello con scritto sopra operai 171 poliziotti 1. Era il ricordo del fatto che dal 1946 al 1969 erano stati uccisi in Italia in scontri con le forze dell'ordine ben 171 tra lavoratori, operai, contadini, disoccupati. Non era proprio un paese innocente. La violenza era, come dire, un qualcosa che già percorreva questo paese nei suoi conflitti sociali. Si era nel pieno dell'autunno caldo. L'autunno caldo viene in genere misurato in milioni di ore di sciopero. Per capirlo bisogna dire che se nel 1968 c'erano state 70 milioni di ore di sciopero, queste salirono a più di 300 milioni nel 1969. C'era un paese che stava cambiando, ma non era un paese così innocente come si può far credere, che quindi la bomba ha stravolto. La bomba ha cambiato, questo sì, completamente lo scenario, perché lì punto di arrivo di una strategia che era già in corso. Alla fine del 1969 si contarono 145 attentati terroristici, di cui 96 di riconosciuta marca fascista, voleva dire 12 al mese più di uno ogni tre giorni, e cioè si puntava, la strage era attesa, la strage era cercata, e da lì parte una storia che è stata chiamata della strategia della tensione, che ha avuto ben altre stragi, riuscite e anche tante tante altre mancate per un soffio. Si è arrivati fino alla metà degli anni 70, dove la mobilitazione popolare e alcune condizioni che si erano determinate misero fine a questi progetti eversivi e fu disarticolato questo partito del golpe. Ma lì inizia un percorso a partire dal 12 dicembre 1969, che è un percorso in cui vi sono davvero concretissimi pericoli perché vi sia una svolta autoritaria in Italia. I fascisti italiani e altri settori della borghesia guardavano alla Grecia dei colonnelli, in cui il colpo di Stato era riuscito nell'aprile del 67. Parte della classe dirigente italiana era tentata da altre avventure di tipo reazionario ed eversivo, e quindi noi da partire da quel periodo abbiamo una serie di anni in cui vi fu una battaglia pesantissima e importantissima, in cui piaccia o non piaccia comunque questa che è una democrazia sicuramente con molti limiti fu salvata e difesa non solo dai militanti di sinistra ma da una parte importante di questo paese che aveva sentimenti e orientamenti democratici e non voleva più riplicitare dentro al ventennio fascista così come l'avevamo conosciuto. Ringraziamo Saverio Ferrari per il suo contributo a ricordare questo anniversario, questo 50° anniversario della strage di Piazza Fontana. Ricordiamo anche il libro, il suo libro in uscita, La strage di Piazza Fontana, per la Red Star Press. Grazie Saverio e a presto. Grazie a voi intanto. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Ecco Michele, per quanto riguarda le letture da consigliare rispetto a 12 dicembre del 1969, che consigli possiamo dare? C'è un testo fondamentale, anche se in alcune parti è un po' adattato, che è La strage di Stato, che uscì pochi mesi dopo la strage, curato da compagni giornalisti della sinistra rivoluzionaria d'allora, e che entrava immediatamente nel merito delle cose, assolvendo gli anarchici e indicando in maniera assolutamente curatissima i fascisti e lo Stato come responsabili della strage. Un testo che è ancora facilmente trovabile. Poi c'è il fumetto di Gianfranco Manfredi, che si può trovare tutto in edicola, Cani sciolti. Certo. E niente, salutiamo tutti e a risentirci alla prossima puntata. A domani. Tenement halls, whispers.